voce. Patrizia Zappa Mulas legge I padri lontani di Marina Jarr. 17ª puntata. Non ho se non sporadici e passeggeri sensi di colpa verso i miei figli. Qualche volta però tremo ancora e mi pento per aver cacciato via Andrea quando aveva 18 anni, mettendogli sul letto due valigie vuote e 100.000 lire. Le sue improvvise assenze, il non sapere dove si trovava e con chi, mi mettevano in uno stato d'ansia tale che preferivo saperlo via di casa, per conto proprio, senza che io dovessi ogni volta aspettare, angosciandomi, un suo segno di vita. Continui e veri sensi di colpa li ho sempre avuti verso i miei libri. L'unica vera colpevolezza, quella di non scrivere. Ne avevo sensi di colpa verso i miei allievi. In un periodo in cui erano divenute di moda confessioni di errori collettivi, sull'esempio di qualche uomo politico che ben a ragione avrebbe potuto addebitarsene di assolutamente individuali, una mia preside aveva detto durante un collegio di docenti: perché siamo tutti colpevoli. Io allora mi ero alzata e avevo replicato: io no. La passione per il mio lavoro mi nettava infatti di ripensamenti e dubbi che non fossero correzioni tecniche. Quando, ferma sulla soglia della classe, guardavo un attimo i miei allievi e li vedevo prontamente ritornare dal tumulto dell'intervallo ai loro posti, dove si alzavano con rispetto, io ero lo Stato, affacciato con occhi severi sul disordine che doveva diventare ordine. Dicevo volentieri: sono un servizio dello Stato, un servizio che funziona, perché non approfittate di me? Sono mica tanti servizi dello Stato che funzionano. Li sgridavo, italiani della malora, li provocavo: non vi libererete di me così facilmente. E giorno dopo giorno andavo a scuola, anche tossendo, con il naso che colava, la schiena che doleva. Ero lo Stato, seppure con l'artrosi e la bronchite. Naturalmente mi divertivo anche a essere lo Stato. Dicevo: lo sai a che cosa mi fai pensare, Giuseppe, quando devi adoperare la tua mente? Alla grande scimmia delle savane che si alza per la prima volta sulle zampe posteriori, si guarda le mani, mimo il gesto, e si domanda: to, che cos'è? La volta seguente mi chiedono dalla classe: ci fa ancora la grande scimmia delle savane? Giuseppe sorride, per nulla offeso, lo sciagurato. Sembra persino contento di essere al centro dell'attenzione. Non si offendevano mai i miei piccoli filistei. Uno di loro mi chiede una volta: quando la smetterò di essere un italiano della malora? Mi rimproveravano anche. Sono fierissima dei loro rimproveri. E si lamentavano di me con me. Salvatore, un piccolo napoletano col naso robusto, mi rinfaccia un giorno di non correggere a tutti la pronuncia errata della R muta. Vedi, mi scuso, a chi ne fa tanti, correggo innanzitutto gli errori più gravi. Quando li lascio all'esame di licenza, non so quanto di me sia passato in loro. Non ho potuto insegnare granché. A leggere correttamente e a capire quel che leggevano, a quasi tutti. A scrivere, a pochi. Sono riuscita una volta a estrarre a un capobanda i termini calabresi, latini e arabi, per dire ciliegio e dire stupido. E lui aveva concesso 5 minuti d'attenzione alla lavagna sulla quale avevo scritto il termine latino e quello arabo. Vittoria non più solida e duratura di quella conquistata in quei 3 minuti in cui, durante un intervallo, in uno slancio di fiducia quasi complice, lo stesso ragazzo mi confesserà di avere crocifisso e spellato vivo un gatto. Ho fatto un omicidio. È rosso e sudato per l'emozione di rivelarsi. Rinuncio a correggerlo per non interromperlo. Per quei 3 minuti continuavo a tribolare e accettavo che in qualsiasi momento potessero essere revocati. Il capobanda avrebbe continuato a scrivere sui muri "abbasso gli ebrei" e avrebbe sfasciato il passamontagna forato sugli occhi e la sciarpa aggranata intorno al collo i banchetti del mercato accanto allo stadio. E così la ragazzina dagli occhi umili alla quale ero riuscita a far pronunciare esattamente il pronome di persona je, fondato il dubbio che difficile quanto la pronuncia fosse proprio l'uso e il significato di quell'io. Una ragazzina ancora magra per secoli di fame, ma già un poco arrotondata dal cibo industriale, quel tanto che bastasse a farne merce, si sarebbe venduta per poche lire. A chi li comperava, fosse pure a scopi diversi, con quelle poche lire, con un gelato, una pizza, una gita scolastica offerta dai soldi di genitori abbienti, io non riuscivo a perdonare. Non distruggevano forse quella parità che, effimera e affidata a compimenti non miei, mi era stato dato di raggiungere nel corridoio in quei 3 minuti? Un'unica amarezza sentivo, ed era quella dell'enorme divario tra lo sforzo compiuto e il risultato. Amarezza d'altronde comune a chi, come me, grande o piccolo, ha dovuto sostenere lo Stato in Italia in questi anni. Per il resto, la mia carriera, benché sempre disagiata e subalterna, non mi dava impressione di spreco. La soddisfazione, infatti, la pienezza tratte dal praticarli i miei piccoli italiani della malora, i miei piccoli filistei, finivano col farmi sopportare il rito mal svolto e mal regolato di adempimenti burocratici sciatti, programmazioni fittizie, riunioni colloquio sull'orologio, parole acefale che di ministro in ministro perpetuavano l'impotenza. Seduta in ultima fila nella sala dei professori, leggevo romanzi durante le assemblee, rilessi tutto Proust. E solo ogni tanto, alzando la testa dal libro, mi concedevo battute di commento sulle circolari ministeriali. Soltanto con pochi colleghi trovavo una vera intesa. Quando per circa un anno avevo avuto responsabilità ufficiali nel consiglio d'istituto, mi ero accorta con sorpresa di essere vissuta sinora in un isolamento ideologico di cui non m'ero affatto resa conto lavorando in classe con gli allievi. Ora stavo col mio esiguo bagaglio, ingenuo e fazioso, di fronte al nemico. Per avviare a soluzione anche un problema minimo delle priorità, scoprivo di avere concetti differenti, avrei dovuto imbarcarmi in un lento e prudente maneggio politico. Mi mancava un linguaggio adatto, ero immediata e talvolta volutamente inopportuna. I figli a casa mi prendevano in giro. Barbetta, oppure persino Mitteleuropea. Guarda la solita barbetta. Le mie impuntature avevano per loro un che di esotico, in cui non distinguevano affatto il diavolo luterano, altro che Mitteleuropeo, dal dio barbetto, il quale continuava a insistere che qualsiasi battaglia vale la pena di essere combattuta, purché fosse un buon combattimento. Mi trovavo però di fronte all'ennesima conferma che le istituzioni mi espellevano. Il mio snobismo minoritario non mi dava più che scarse soddisfazioni e mi intestardivo in inutili e estenuanti tentativi che affondavano nella palude cattolica. Avevo 50 anni e mi alzavo la mattina alle 6:30 per prendere il tram, la mia scuola era alla periferia, nei gelidi e immoti mattini d'inverno torinesi. Alla fine della giornata avevo male dappertutto per la stanchezza. Non me la sentivo però di rinunciare né all'insegnamento né al lavoro in casa, a casuali conversari con i colleghi, alle ore in classe, alle pile di biancheria da stirare, ancoravo le mie giornate. La scuola da una parte, la casa dall'altra, erano quell'alibi reciproco per cui non dovevo essere a completa disposizione di nessuno. Erano solchi obbliganti che pure mi davano l'unica libertà possibile, quella di una certa riserva mentale. Nella mia grande casa, sempre più vuota, Laura e Paolo vivevano ormai per conto loro e presentivo la partenza degli altri due, mi ero abituata a fare da sola tutto il lavoro e mi aggiravo in silenzio per le stanze, non più inseguita dalle querimonie della donna Ore. Talvolta capitava che io lasciassi per più giorni la polvere sui mobili lustrati prima con tanta cura. Evitavo di incontrare chi avesse frequentato Gianni e me come coppia. Ogni tanto correvo un po' sfiatata in un corteo dove potevo gridare ad alta voce la mia rabbia, e solo in sporadici risvegli di attivismo preparavo ancora una di quelle grandi cene che mi ero divertita a cucinare per tutta la cerchia dei nostri amici. Soltanto scrivere mi distoglieva dalla tetraggine. Scrivere stava nella stretta misura della mia riserva mentale. Cancellando come di consueto le mie tracce tal quale un indiano inseguito, scrivevo La principessa della luna vecchia, il più allegro e ironico dei miei libri, dedicato ai miei figli e ai loro amici, l'unico futuro che mi apparisse possibile. Tra me e Gianni perdurava una separazione di anni. La nostra vita di coppia sembrava terminata. Conquistata una stanza per me, chiudevo la porta la sera dopo cena e non rispondevo neppure allo squillo del telefono. Gianni non parlava e non mi parlava. A tavola, da solo con me, non chiedeva il sale o il vino, ma li indicava con la mano. Stavo attraversando una gravosa menopausa che cercavo di superare con rituali igienici e psicologici. D'altronde non ero capace di valutare l'entità dei miei disturbi, abituata com'ero all'idea che io i miei mali me li ingrandissi con la fantasia. Mi vendicavo anche con la maligna regola dei padri per cui bisogna soffrire in silenzio. Trattavo il mio corpo, che, mi ripetevo, non piaceva più né a un uomo né a un neonato e che del resto mi era sempre stato estraneo, come una macchina che dovesse funzionare grazie alla mia manutenzione. Avevo il terrore della sua disobbedienza e lo sorvegliavo da vicino. Tagliare subito gli ingranaggi arrugginiti, via le parti guaste, protesi, ganci, interruttori. Avevo avuto per qualche mese una tartaruga. Ero riuscita a farle superare l'inverno in una buca scavata nella terra dentro una cassetta sul balcone. In primavera l'avevo nutrita con un'insalatina di cui era ghiottissima. Mi alzavo presto la mattina, anche quando non dovevo andare a scuola, spesso dormivo male, e per prima cosa uscivo sul balcone e la chiamavo. Nell'udire la mia voce, muoveva le zampe e spingeva la testa fuori dalla testuggine. Una mattina all'alba mi svegliò un temporale di maggio. Andai a prendere di pizza, l'avevamo trovata in Jugoslavia mentre attraversava la strada, e la posai a terra accanto al mio piede, con la sua razioncina d'insalata. Correggevo compiti. Fuori l'alba, nerissima e bianca, si striava di fulmini. La pizza, inghiotti dall'insalata, si coricò, le zampe distese e la testa appoggiata sulla mia scarpa. Ai suoi atti fetali andavano i miei soli moti di tenerezza. Nel mio animo proliferavano rancori. Non perdonavo ai nostri comuni amici, i miei ex amici li chiamavo tra di me, di non scorgere la distanza, numerata tuttavia non di accadimenti, ma di irrigidite conclusioni intime, tra il mio apparire e il mio convulso mondo interiore. Non osavo separarmi da Gianni, anche se non passava giorno senza che ci pensassi. Mi tratteneva l'assillo di che cosa avrebbero fatto sia lui, al quale ero abituata a badare, sia soprattutto i miei figli. Non potevo imporre loro quel che mi era stato imposto, far impallidire la mia immagine di madre ottimista e tenace. Ma più di ogni altra cosa serbavo un'idea ferrea sull'unità del nostro nucleo familiare e mi pareva di intuire nella sua coesione una forza segreta che superava di gran lunga le mie personali possibilità. Allorché mia figlia a 20 anni ci aveva lasciati con un atto di rivolta subitaneo e violento, tra i miei pianti di disperazione, di ira e di stupore, sentivo cocente la ferita che la sua partenza incideva nel cuore di questo nucleo. Quasi che andandosene, essa si fosse portata via anche una parte viva dei suoi fratelli. I miei rancori diventavano furibondi quando, durante qualche serata con amici, sentivo parlare Gianni, affascinante ed estroso, ancora una volta antipatica io e simpatico l'altro, lui l'artista, io la formica, e riconoscevo i suoi trucchi da giocoliere. Vecchia partner fedele, non li potevo svelare, solidale nonostante tutto, la fatica di ora in ora maggiore, la coscienza anche qui del mio isolamento e dell'impossibilità di romperlo convincendo gli altri mi trascinavano talvolta a scoppi selvaggi di protesta, gridando in favore degli oppressi. I miei attacchi d'ira erano di solito su argomenti politici. Gridavo in mio favore. Stavo seduta, mortalmente stanca, come un cadavere al quale si fosse infilato un bastone di sostegno tra schiena e cappotto, e li guardavo, i miei ex amici, i suoi complici. Non mi aveva uno di loro persino raccomandato di essere buona con lui che era così buono, il poveraccio? D'altronde, anch'io temevo di apparire cattiva ai figli se abbandonavo il loro padre indifeso nel bosco. Nel frattempo, mia madre, che aveva ormai 79 anni, si era trasferita in casa nostra su consiglio del medico. Si era fratturata due vertebre cadendo e, su mia insistenza, avevo infatti bisogno di semplificare il problema di come assisterla. Mi sentivo responsabile di lei e pensavo che, vivendo essa con noi, si sarebbe trattato di offrirle, a lei così indipendente e lucida, quel minimo di aiuto infermieristico e domestico che ero abituata a prestare a tutti i miei. Quando 26 anni prima gli avevo detto che stavo per sposarmi, notizia inaspettata, perché qual è l'uomo, oppure anche qui il poveraccio, che sarà così pazzo da sposarti, mi aveva fatto preparare un bellissimo corredo e mi aveva regalato il mobile più prezioso che aveva, uno scrittoio di ciliegio ottocentesco. Perdonò difficilmente a mia sorella il suo divorzio da un uomo che appariva eccezionale e non gliene chiese mai le ragioni. Nessuno avrebbe potuto essere peggiore del marito dal quale lei stessa aveva dovuto separarsi. Allorché anni dopo le avevo spiegato i motivi di questo divorzio, si era mostrata stupita e incredula e aveva cambiato discorso. Sistematami nel mio matrimonio, mi aveva fatto periodicamente regali belli e utili per la casa. Teneva lontane, con ambo le braccia tese, mie eventuali confidenze. La mia condizione di donna felicemente sposata regolava e limitava qualsiasi nostro rapporto. Naturalmente predilesse mio marito e mi frequentò attraverso i miei figli, che amò tutti senza preferenze e distinzioni, colmò di regali, seguì nelle vicende. Una sua fotografia sta ritta sulla spiaggia, la gonna chiara sotto un golfino chiaro, svolazza in un biancore quasi autunnale. Intorno a lei Laura, Paolo e Pietro, bambini. Lei sorride d'un sorriso beato e assorto, non al fotografo, ma alla giornata settembrina. Avevo continuato a corteggiarla, a sfidarla alla familiarità, che per me sarebbe stata riprova del suo affetto, e mi pareva talvolta di piroettare intorno a lei per avere la sua approvazione. Avevo ogni tanto soprassalti di rabbia e di odio, e allora scoppiava uno dei nostri rarissimi litigi, perché lei non mancava mai di rinfacciarmi qualsiasi aiuto mi desse. Cercavo di ricorrere a lei il meno possibile, perché non sopportavo quelle sue rimostranze. Per nulla ossessiva nei riguardi del denaro, che pure guadagnava con il proprio lavoro, non ha mai avuto paura di restarne senza. Munifica e magnifica nei doni, era capace di rammentarmi ad anni di distanza di avere dovuto una volta pulire il sedere a uno dei miei figli bambino. E se per un qualche motivo mi veniva meno l'aiuto domestico, sembrava che io volessi pretendere da lei di lavarmi i piatti. Tra lei e me, tra la sua generazione e la mia, si allargava una vera e propria differenza di classe. Lei non era abituata al lavoro manuale, che all'occorrenza eseguiva benissimo. Aveva avuto bambinaie, governanti, cuoca, cameriera. Non valutò dunque mai la mole di lavoro a cui dovetti subbarcarmi. Avevamo del resto momenti sereni, parlando dei miei figli, di libri, delle sue traduzioni. Traduceva dal russo, era modesta, incontentabile, riconoscente per la bellezza del testo che stava traducendo, feroce sugli errori altrui. D'estate, dopo un mese passato insieme, non senza burrasche, perché naturalmente non era abituato a stare con altri, e i nipoti, presi tutti insieme, erano un po' meno adorabili, viveva da sola nella nostra casa di montagna, innaffiava i fiori, lucidava le maniglie, leggeva i suoi libri al sole. Quando ritornava a settembre a Torino, era abbronzata e rugosa come una vecchia angrognina. In città veniva ogni sera da noi alle 7:15, dal suo piccolo appartamento gaio ed elegante a pochi passi dal nostro. Si intratteneva con i nipoti che facevano il bagno e si preparavano alla cena. Fumava in tutti gli angoli della casa. Smise di fumare a 80 anni e io mi permettevo di prenderla in giro dicendo «Tarda virtù!». E una volta schiacciò in un uovo al burro, preso per un portacenere, era molto miope, la sua cicca ancora accesa. Quando preparava qualche cosa da mangiare, qualcuno dei nipoti sorvegliava il cilindretto della cenere, sempre più lungo, in bilico sulla pietanza che stava cucinando. Intanto raccontava del suo lavoro, insegnava francese in una scuola media, e i suoi squillanti e arrotati improperi, soprattutto sul suo preside, furono probabilmente le prime parolacce che i miei figli sentirono uscire dalla bocca di adulti. Da sola con me era cauta e un po' imbarazzata. Già vecchia, mi convocò un pomeriggio a casa sua e, ricordandomi tutto quello che aveva fatto per i miei figli, mi incaricò di trasmettere, dopo la sua morte, gli oggetti più preziosi ai quali più teneva a mia sorella, che non aveva figli e che, dopo il divorzio dal marito americano, viveva e lavorava a Torino. Stringendo le labbra, che inumidiva un poco con la lingua, parlava precisa, argenteria russa, il tavolino da lavoro della nonna, le stampe e i due vasi di porcellana del Settecento. Cercava per la stanza con i piccoli occhi di chiaro castano, quasi a non dimenticare nulla. Di quel suo viso serrato avevo un timore così profondo che, assistendola durante la sua agonia, ancora trasalivo se le passava sul volto un inconsapevole fremito di severità. Mentre dunque frugava con lo sguardo, non le venne in mente, così bene mi aveva seppellita nei miei figli, di destinarmi un oggetto qualsiasi che le fosse stato caro. Ho conservato della casa della nonna il grande armadio provenzale di noce chiaro, il quadretto con la casa dei suoi genitori, il tavolinetto dove stava la Bibbia in soggiorno, una piccola sedia e la Bibbia del nonno, con dentro un foglietto segnato in scrittura già incerta, Mark 4, verso 35, e Jésus dit «Passons à l'autre rive», i libri del nonno, e due tazzoni di porcellana con le rose dipinte in rosa, uno senza manico. Me ne servo la mattina per la colazione. Ritornando a casa, dopo quel monologo testamentario, ero turbata e disturbata. Mi era parso, ed ero infantilmente risentita e a disagio, che tra le parole di mia madre trapelasse il vecchio ricatto: «Quando non ci sarò più, vedrai». Ma soprattutto mi agitava quell'elenco così preciso, consegnatomi con labbra strette e occhi sfuggenti. Le eredità non mi importavano. Era vero del resto che mia madre aveva coperto di regali i nipoti, aveva comperato giochi, libri, vestiti, li aveva condotti al cinema, al circo, al mare. Eppure mi sembrava, e ne ero ferita, che essa avesse inteso escludermi, pur senza parere, secondo il suo solito, da quei suoi argenti, dai suoi vasi del Settecento, dalle stampe e via via, dai cassetti con dentro le camicie da notte color cipria, i guanti di pelle creme, la spilla d'oro con il cameo, dal segreto della sua preziosità. Forse, mi ragionavo, aveva voluto darmi fiducia facendomi questa consegna, però ingoiavo lacrime e mi stupivo. Non sarei mai riuscita a comprenderla. Dietro il suo imbarazzo e la mia paura, eravamo rimaste ferme entrambe allo stesso punto in cui ci eravamo lasciate a riga. Tastavamo l'una nell'altra la dissomiglianza. Io in lei la sua ritrosia, assoluta nelle passioni, o amava o odiava, incapace di mediare, buttava via di colpo, con la stessa gioia occulta con la quale mi annientava nei suoi furibondi giudizi, chi riteneva indegno o infedele, ma invocava la ragione a motivare l'abbandono. Lei, in me, tastava il mio bisogno di convincere e conquistare, la mia indiscrezione, perciò. Difficilmente mi rassegnavo a perdere qualcuno, calcolavo, ma la mia ragionevolezza mi portava a trovare ragioni per tutti, Lei non cedeva magari per anni dietro una porta volutamente chiusa. Io ero sempre pronta a ritornare indietro alla prima lusinga. Se sbarravo la porta, anch'io ero permalosissima, ci stavo accosto, sperando di essere richiamata indietro, e mi consolavo fantasticando. Lei detestava le fantasticherie, ma anche la fantasia non le era congeniale. Traducendo magistralmente Pasternak, continuava a chiedermi conferme: ma ti pare possibile che abbia voluto dire proprio questo? E in me, poi, per lei, le fantasticherie e la fantasia erano menzogna. Patrizia Zappa Mulas ha letto I padri lontani di Marina Jarre. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.